infatti molte volte le batterie quando le tengono toccate dicono entro un certo periodo non puoi andare. Questa c'è dietro, sono affidato 07-2011. Dall'apparato o di che cosa? Dall'apparato, ecco, si sente. E poi le ventoline di questo alimentatore, devo comprare un alimentatore stabilizzato di quelli che non avvento, hanno troppo ventoline, ce ne sono quattro attaccati, adesso mi stanno facendo solo, ma sì. Sì, ha già le sento. Hanno capitato che ti faccio l'alimentatore che c'ho io, dall'accesso, 60 ampere senza vento, la prona può dare anche 80, questa qua, è una cosa allucinante, è enorme. Ma che manco lo scucci, quando ti come schiaccia, è proprio la punta dello strumentino si muove. Proprio come quando sei al minimo col coso, a Santiago 2, Santiago 3. E deve fare tutto il giro fino ad arrivare a 960 per farti un rapporto di strumento di Smith. Come la pigia portante, parte la ventola, a me mi piace sentire i rumori di sottofondo, soprattutto quando sono in cuffie, tutto sto casino, capite? Va bene. No, lo so, infatti, anche l'altro che avevo col 440, che è un bel apparato, quello tira 25 ampere continue, però qualche volta quando tiravi un po' più di più la potenza, insomma io ci attaccavo anche altre cose vicino, altri apparati, baracchini e cose del genere, strumenti, dovevi ogni tanto si accendeva la ventolina per dire estate, periodo di caldi, mentre il ghiaccio proprio non ne ha di ventola, non esiste, perché c'ha dei dissipatori dietro enormi, c'ha un trasformatore sovradimensionato, per cui manco la coda li curica, non è mai venuta. Quello è natalino, 40 ampere, c'era quello della ZD, ma che strumenti c'ha? Quello è un buon prezzo, 50 euro. Non so. Non me lo ricordo che era un buon alimentatore, che andava un po' bene, però non mi ricordo come l'ha fatto, capito, Robo? Chi è? Avanti. di cose tristi. No, quando io parlo con mio fratellino siamo sempre di umore buono, non ci sentirai mai bisticciare. C'ho un attore, ma solo guardavo in faccia Domenico, io l'unica persona veramente, lo puoi credere, ma non perché c'è qua, no? Ci siamo conosciuti anni e anni fa, abbiamo avuto l'occasione anche di lavorare assieme, in coppia proprio, e non ce n'è più nessuno. Io penso che con tutte le persone che ho conosciuto in radio e di persona, ma veramente di tutte e tutte, penso che a Domenico ci vogliano molte persone per superarlo, sia di umore, di educazione, di sincerità, di tutto, guarda, di tutto. molte volte inganna. Inganna e c'è gente anche che non merita l'apprezzamento e la considerazione. Infatti hai detto bene, tu lo conosci in persona, Domenico. Io non lo conosco personalmente, ma per quel poco che l'ho sentito lo posso valutare come una brava persona, dai. Non dico altro, se no poi magari si emoziona e non ci fa più parlare. Ciao Domenico, avanti. Quindi ho fatto dei cambi, delle cose, però e ancora non ho finito perché Giulio mi sta facendo il basamento nuovo per sollevare praticamente per sollevare la radio e quindi insomma niente, non è ancora finito, dai. Io adesso quando capisco già ti faccio vedere i lavoretti che ho fatto, mi sono domani salio, anzi sabato se vieni ti faccio vedere le cose nuove che ci sono e mi darai qualche commento da parte tua. Cosa ti volevo dire? Di colonnine non se ne trovano in giro, però a prezzo barato diciamo, no? Perché quando quella che stava andando a Natale io ne voleva 100 euro, la stabilì, ho detto che su internet le trovo molto meno. Ad un prezzo molto buono, ho preso da lui l'M85 la colonnina, capito? Quindi con Fabrizio non c'è problema, ci abbiamo scambiato sempre delle cose, gli ho fatto degli ottimi prezzi, quindi lui mi ha fatto un ottimo prezzo anche a me. Io quella che avevo l'ho dato a Giampaolo con 430 e poi me la sono ricomprata, capito? C'è sempre da imparare. Rispondo un attimo alla porta che non sono attento. E io? Avanti con me, a me accoppi. Papà, allora arrivi. Benissimo, non ci sono problemi. Alla grande. Sto andando con 40 watt con me. Non c'è niente attaccato, proprio liscio. Bello pulito, c'è sempre la ventolina sottofondo, quella dell'elemento cuore, quello piccolo, e niente, tutto qua, capito? Sono rientrato qua. E io, non mi vuole attaccare niente con me, quando fa le prove, ho fatto le prove stasera, mi hanno allineato, ho fatto tutto quello che c'era da fare, e boom. E già una buona guarda, non mi hai capito, avanti con me. Anzi, non vedo dove sta parlando. Dove sta parlando? Non lo sento io. Senti, tu sei dove sta parlando? Una macchina non sta facendo azione, non lo so, sentivo qualcuno, infatti sono stato zitto. Cosa ti volevo dire? Sta facendo qualcosa, ma comunque già se ne trovano con le colonnine, credo che sia abbastanza semplice, no? Ma che cosa? Le colonnine lì? Sì, le colonnine sto dicendo. Io penso che se trovi le CP 430, che è quella grigia di Minia, non credo che la paghi più di 60 euro, 60-70 euro, usata 50 euro. Se vai a comprare la nuova costa 120 euro. Ma ce n'era una della linea, adesso non mi ricordo se era della Mari, della linea del 940, che c'aveva anche un interruttore davanti, il controllo di volume, se non sbaglio, un filtro, qualcosa, c'era un tastino davanti, o sbaglio? Quella con il filtro, quella 940, quella 950, quella della radio grossa, anche quella dell'850, che io sono andato a comprare la nuova e mi sono spaventato, te la scippavo, non me la di più. Immaginate che quella del 920, mi ricordo sempre, ma l'ha comprata Marco Scorpion a Milano, quella del 920, quando mi ha chiamato, ho chiamato, tu sei arrivato, lui mi ha chiamato, l'ha arrivato, ti serve qualcosa, così mi serve la colonnina del 920, l'effettino che certamente voglia essere. Va bene, allora te la prendo, allora qui ci arrangiamo. Quando è sceso, mi ha detto, poi quanto va? 180 euro, mi è sceso un cazzo. Non so, no. Ma quelle cose come comprare sempre usate, come fa a comprare cose del genere nuove, te ne basta la gana. Ma cosa so che costava così? Mi ha voluto di prendermela, pensavo fosse una cosa un po' carina. QRM, forse non capivo quello che mi sta ascoltando. Comunque Domenico, buon tutto, buon lavoro e buona giornata per domani. Alle prossime, ciao ciao. Bye, bye. Se dovesse capitare un giorno di trovare un 940 appresso tracco barato, come dico io, regalo, ma lo regalo bene perché mi piace tantissimo il 940. Lo vorrei sentire come va qua in AM a vedere se riesce, però mi ha detto c'è una ricezione da paura. Qualche bidone, cose del genere, sono apparati, poi i radioamatori l'hanno sempre apprezzato, ho visto anche dei film alla televisione, l'ultima guerra del Golfo, ho visto una stazione radio americana dentro nel corso del deserto, c'erano proprio 9.40. Beh, la maggior selezione l'abbiamo fatta tutte come tutti i contesti, anche i contesti di settimana l'abbiamo sempre fatto con 9.40 perché ho 2.20 da combattimento, capito? A parità di prezzo e anche l'8.50 è valutato intorno alle 600 euro, 600 euro, poi 600 euro, 700 euro, se io ho comprato un nuovo nuovo e l'ho comprato a quel prezzo lì, ma è tutta un'altra musica, c'ha tutti un semi digitale, c'ha tutti i filtri anche in trasmissione, è un'altra cosa, se proprio vuoi avere una radio. No, no, è bello, 9.50 è bellissimo, anche 9.50, so, però 9.40 diciamo stiamo parlando di una cosa un po' più vecchiotta, sempre di quella linea del 4.40, del 140, però è un ottimo, bellissimo apparato. Cosa ti volevo dire? È bello anche quello che c'ha Fabrizio, quello 7.90, per le Google, per lui, veramente un bello apparato. Prezzo? Registrato un becco, sì, quello ce l'ho fatto anch'io, quello di Bob. Quando un apparato così a me non interessa, io voglio le radio separate, capite? Io uso 7.80 prima di quello. Esteticamente è molto bello e va bene. Lo uso in VHF e in VHF uso il C7004 che c'è 100 watt. Avanti il break. Buonasera Claudio, buonasera Roberto, già di K2 da questa parte. Mi supercondializzo, mi prendi Roberto, ti rimetto il cambio. Ecco Gianni, mi sembri, buonasera comunque, uno speaker del telegiornale quando fa leggere i titoli del telegiornale, è cambiato completamente modulazione, c'è una modulazione naturale, come dal vivo, come la realtà, veramente bella radio. Riprendi Gianni, mi già, scusa, è claro. Sì. E anch'io tornando con la stessa, aspetta, con la stessa radio, Gianni, anche oggi, sto andando con 4.40, ti ascolto benissimo. Perfetto, mi sto abituando anche a parlare caro, in casa, perché di solito alzo le voci anche quando parlo in casa, cioè, quindi mi sto abituando a parlare calmo, mi sto per via di questo discorso che mi hai detto, che sta tagliando con questi uno sta aumentando l'altro per questo accidente di domani qui a casa di Vietro di questo 21 dicembre, ma non puoi essere parla qua. Perché io devo consegnare due macchine, per cui almeno l'idea mi devo far da prima di andare, di partire, non è così. Lo capisci il sassarese, Gianni? Certo che lo capisco, certamente che lo capisco. Ok, ma io già siamo qua, dove devo andare anche a Sassari, ti faccio planerare, tutti i macchini. Devo comprare mia moglie a fare una visita e niente, quindi ti faccio con le radio. Poi vado lì, poi ti hanno fatto un'altra cosa da fare, vedete che mi sono fatto un'altra cosa, da mio uso devo passare, perché ho mandato il signorino, gli ho messo un vagone, la Mercedes, e cosa ha fatto proprio? Mi ha fatto fare la fattura, però ho capito, questo sì che abbiamo messo qualcosa sul fumo, no, però con la targa della Mercedes, quando la Mercedes non era mia, però ho fatto a Francesco, e per domani mattina a Venezia, perché se con la vediamo in tutta le immagini, grazie. Guarda Roberto, Mickey Gay, quindi quello con la pizza rossa ce l'ho l'altra. Quindi, un attimo, perché è preciso, sta attento, voi trovate, per un attimo, sono le 4:40, è preciso. 10, 20, 30, ecco, vado a accettarlo. 30 watt di portante bianca, ok, di portante bianca, modulata, io sto andando con 50 watt, 55 watt. E deve andare così perché hai una modulazione perfetta. Se tu vai ad aumentare, lui cosa fa? Cerca di spingere il picco di modulazione, perché mi ha detto quella radio, insomma avete tutte, perlomeno quelle che ho toccato io, quella lì è toccata da me, quella di Roberto è toccata da me perché era la mia, e quella che ho io è fatta da me lo stesso, ok? Quindi siccome la conosco bene, sono manovette, come tu sollevi appena appena più la terza posizione, lui ti va a picchi a 100 watt, a 100 watt, e secondo la vicinanza inizia praticamente a comprimere la modulazione, ma è sempre abbastanza comprensibile, non ci sono problemi, già. Vai benissimo, alla grande, quello non è come il 140 tu lo accendi, c'ha 10 watt, lo di raffreddo, poi inizia a salire quando scarda, inizia a salire e se ne va in picco. No, il 440 se tu lo regoli a caldo a 30 watt, lo accendi a freddo sempre 30 watt, va. Capito lo bello, va bene. Sì, sì, è vero. Confermo. Volevo fare una prova di, come si chiama, di Gianni, sentirlo senza il processore inserito, solo a livello di acustica. Fammi sentire, che togli il processore e poi me lo farò inserito, Gianni. Schiacciato inserito, così. Cappa. Staccato. Ora, staccato. No, fai parlando e poi schiacci il processore, così facciamo il confronto immediato, se no non mi rendo conto. Fai una prova. Ok, adesso è staccato, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, adesso lo attacco, via. Vabbè, già cambia quanto la rugia. Prova tu, clap, per curiosità. Provo io? Così il mio, dove è il processore qua? Manco me lo ricordo più a me a destra, quello là a sinistra invece. Allora, così il mio è attaccato, 1, 2, 3, 4. E così praticamente è staccato, ma cambia. Che cazzo, frate, il caso tuo è un abisso, cioè quasi mai ti assomigliavi a Marco Scurpino come modulazione sua, proprio un abisso totalmente, cambia, spingere parecchio quel processore. Ecco, ho attaccato il microprocessore, l'ho aumentato appena, perché questo praticamente, qual è il problema? Io questa non la stavo usando perché l'ho messa in HF, tutto in HF, in 20 e 40 metri. Quello successore, quando stai spingendo a meno laterale, devi staccare il processore perché altrimenti è troppo in alta, e se non c'è differenza da quando è attaccato a quando è staccato il processore, continua a dirti non va bene, sei troppo alto di modulazione. Allora ho fatto sì che dall'interno c'è la regolazione e ci sia tutto il cambiamento da attacca e stacca, ecco perché. E quindi in ampiezza modulata chiaramente se la senti in fermo è ancora meglio. In ampiezza modulata è così, ma invece questa andava a lavorare. Ma la tale questa nave era 200 watt pieni. Infatti me l'ho messa in 10 metri, proprio per quello perché, sì, pronti? Proprio perché deve andare bene. Oggi non è più una curiosità, ma non lo stai usando il processore inserito, quindi ce l'hai sempre il processore. Non tocca più niente, glielo blocchi quel coso. Ma Gianni, se fa la regolazione, sapete quanto minuti, dopo 10 minuti ho sentito il proclamare facendo le prove. Inserito 1, 2, 3, prova radio, senti la differenza, questa è senza, sicuramente la fedeltà aumenta, però si è abbassata un pochettino la radio, confermi? Sopra è dato comunque per 50 watt, parliamo naturale senza modifiche, 50 watt in AM e 100 in banda laterale, però facendo certi accorgimenti ne dà anche qualcosina di più, mentre 440 è dato per 40 in AM e 100 in banda laterale, però quello di quella persona lì ne tira molto più di 100. Questi sono fatti un tipo di vernice per la plastica, io dico lascialo stare così, a meno che non trovi qualche pennarello simile, perché questo è un colore opacco, sono fatti satinati opacchi, trovare quel colore a un riprodotto, cioè teoricamente si può fare tutto, però dovreste prendere le mazzette e fare delle prove con il pennellino. Io consiglio lasciarlo stare così, lo conosco anche bene quell'apparato lì, diciamo forse un po' di coso, di smog, perché il padrone era fumato le mani, si era attaccato un po' di nicotina, cosa del genere, però è un apparato che funzionava benissimo, già da diversi anni lo conosciamo, andava che è una meraviglia, per cui i piccoli disegni sono segni di uso, per cui io direi, anche io qualche segnettino ce l'ho, ma non fare niente, lascialo stare così, se no lo abbruttisci e vai, fai rovini tutto, perché poi vai a toglierlo via con qualche solvente o con qualcosa e ne togli subito la vernice sua originale. Io consiglio di lasciarlo stare così. Ma infatti no, ho pulito il microfono, però ho preso il Fonix, ho preso, l'ho pulito, guarda, è lucido, lucido, lucido, è proprio tutto cromato, solo il pezzo il DPT da prima è stato dato il croma, quello non fa nulla, e poi ripeto, tutto quanto l'ho pulito, hai capito? Perché io ci tengo molto della radio, da si è stato era unto, da snow, proprio la facciata non voleva pulire, adesso la facciata è come se l'ho portato quindi di fronte, con la radio di fronte, oggi non la fabbrica, ma che grazie c'è nato, purtroppo. Dimmi una cosa, se non me lo ricordo, schiaccia un attimino il tasto dove in alto a sinistra voice, è scritto voice, il tasto dopo l'accensione, il basso a sinistra a fianco dell'accensione, se c'è la scheda fonemi pure, che non me lo ricordo. C'è qualcosa? Roberto! Quando schiacci quel tastino ti dice i numeri della frequenza in inglese, ti dice 270750, te lo dice? Un attimo, non è che mi hanno chiamato al telefono, un attimino, riprendo subito. Vabbè. Mi vedo. E allora adesso me devi guidare, allora. Quale tastino devo toccare? Allora, il tasto power, l'hai visto, quello grande in sinistra, in alto a sinistra. Allora, in alto a sinistra è il tasto power, e in alto a sinistra, se non so con quello si spegne, ma il power è l'interruttore. Sotto l'interruttore, esattamente sotto, il primo tasto a sinistra, sotto l'interruttore c'è scritto voice in italiano. Sì, sì, l'ho visto. Prova schiacciando, a vedere se ti ripete il canale con una voce sintetizzata. Parlare devo però. No, non devi parlare niente, schiaccia e lui ti dice la frequenza. No, una signorina qui parla. Ma dice qualcosa? Parla anche quando stai parlando, sta smettendo, schiaccia, così si dovrebbe sentire. Ok, ok. Ok, quindi c'è anche la scheda fonemi, perché quello è un optional della cosa, su quel tipo di apparato. Quello serve per, diciamo, per i non vedenti, quando avevano problemi, schiacciavano quello lì e gli dava la frequenza. La frequenza mi ha detto, infatti a questa volta lo sapevo dove. Voi poi c'è nebbia, c'è un'azione, e allora invece dovevamo dare un'altra conferma, Lope, ma questo apparecchio c'ha il box. Certo che c'era il box sopra, e poi sopra l'hai letto, c'è scritto LC Power SVR, l'hai visto? Tu l'hai messo in posizione PWR, così, posizione centrale. Sì, posizione centrale quello, Lope. Poi sopra c'è scritto Send Out, quello senza occhiali, quella è l'accordatore automatico. Allora tu fai una prova adesso, hai visto il tasto dove c'è scritto ALC power abbreviato, c'è scritto PWR poi AT, no scusa, LSVR, prendi quel tastino e lo metti tutto a destra, lo schiacci sempre in posizione, tu adesso ce l'hai in posizione centrale per vedere la potenza, mandalo tutto a destra e schiaccia a pulsante e vedi e ti indica quanto c'è di stazionare, per curiosità prova. Va bene, quello lì, come si chiama, ti dà un'indicazione molto molto precisa. aggiungere un filante troppo dell'accordatore esterno, infatti io faccio un doppio controllo, ogni tanto metto l'accordatore esterno, cioè io siccome ho commutato l'antenna attaccata all'accordatore e ho due strumenti, mi guardo a parte le stazionarie e le cose e poi ogni tanto faccio una verifica per vedere, perché molte volte quando nel breve tragitto che c'è il cavo, tipo l'area dei disaccordi, per dire tu guardi lo strumento e tiro le stazionarie a 1,5, poi guardi lì e ce l'hai a 2. Poi basta non tocchi un millesimo il potenziometro dell'accordatore del rosmetto dell'accordatore, quello esterno, e vedi che tiri abbassa a 0. Comunque se è a 0 va tutto bene. È a 0, allora, per cui ci siamo. E l'altro con la 0 è quello ANC, a cos'è quello? ANC quando stai parlando è tipo modulometro, là, ti dà come si muove sul parlato, non devi andare oltre il limite rosso. Perfetto, allora poi c'è l'altra parte di sotto, c'è scritto sende alto e poi attune. Allora, se tu schiacci il sender da solo, ti dà la potenza, ti vedi come che stai mandando portante per fare una prova, quello lì. Poi, come schiacci il tasto, ma non lo toccare, se no voi magari fai danno, diciamo, non riesci a rimettere a posto, schiacciando i tasti in contemporanea, due tasti, ti fa l'accordatore, cioè l'accordatore interno, però 427 c'è già l'antenna accordata, per cui non devi fare niente, quello lo usi magari se devi andare fuori banda su altre cose, c'è l'accordatore interno. No, giusto come si chiama Rome, poi dato che lo conosco, c'è il loco, pure un accenno per bloccare la frequenza, in modo che se tocco la rocca era curioso, poi c'è l'altro, vicino al processore c'è un altro pulsante, cosa serve quello? E quelli sono dei filtri, ma li usi sulla in banda laterale, no, non c'è ancora niente qua. Quell'altro, quella monocromina che gli è scritto selettivity, poi c'è M1, M2, altra roba, cos'è quella? Quelli sono i filtri, non so se ce l'ha il tuo il filtro, però diciamo come sono degli optional, dei filtri per ti tagliano delle frequenze, diciamo la larghezza di banda, lavorano su certi segnali, quando sono banda stretta, banda un po' più larga, utilizzi quei filtri, lasciano sempre automatico, in posizione auto, tutto dritto a sinistra. Infatti mi sono quelli, no, non ho fatto niente, lo so, quella roba è una prestituzione, non lo so, pure in opera. Non ho detto, è a posto, non posso lamentarmi, non posso lamentarmi. Ma tu non ho detto nulla, ho fatto con un altro. Ehi, così ha detto, lui ci sarà 140 per 440. Ma come si chiama sempre questo microfono che c'è io sono un altro? Sì, ha usato anche l'MC85, tutti e due, però gli ultimi minuti di trasmissione stavo utilizzando l'MC60. Ma dove c'è? Ma è quello 85 lo prendi, il microfono simile a questo? No, no, è diverso, un microfono un po' più prestazionale, però in AM lo devi usare senza il compressore perché si deteriora, è eccezionale se tu lo usi in banda laterale, quel microfono spinge che è una meraviglia, mentre in AM se tutti utilizziamo il coso, il processore, è meglio l'MC60, cioè il 440 rende un po' di più col, però come fedeltà, se tu lo vuoi con una voce tranquilla, fedele, l'MC60, l'MC85 è superiore al 60, perché abbiamo fatto delle prove e se tu togli il processore e confronti le due modulazioni, abbiamo fatto strumentalmente, non solo a orecchio, è migliore l'85 senza il processore. Il 60 spinge di più però. Serve attaccare il tasto, c'è la commutazione di lì e poi c'è il vox che parli senza schiacciare il coso. Anche a me l'altro giorno mi ha fottuto, non lo sapevo, ce l'avevo inserito e infatti va la portante da solo, basta che fa un rumore, tac, e parte la portante, ti evita di schiacciare il tasto. Come fa? Anche a me ce lo posso provare. Sì, ma lascia perdere, non è fare di quelle cose. Se lo vuoi provare fallo, però magari certe volte non sei sicuro che sia uscito. Ok, allora se schiaccio indietro. Se lo metti in posizione, aspetta anche in posizione, deve stare. Deve stare tutto a sinistra. Poi c'è il Mickey Gain, il card che ti regola la potenza, lo squelch, il notch, il regolatore di radiofrequenza che ti può regolare lo smitter come limite, ti fa entrare solo i segnali a un secondo di a un valore di S che scegli tu. No, ora stavo spento, metto tutto a sinistra. No, ma lascia stare, guarda, non toccarle quelle cose, almeno si tocca. Io mi ho messo dietro un'interfaccia, posteriormente c'è una presa autopulia, di lì me l'ho attaccata al computer. Ho attaccato a un analizzatore di spettro e a un indicatore di livello digitale che mi dà i livelli delle modulazioni, analizzatore di spettro. Quella cosa lì ho fatto, per il resto ho lasciato tutto tranquillo, senza modificare niente. Alternata. Non so se sia dovuto al fatto che sei abbastanza amplificato e c'hai l'alimentatore molto vicino, non lo so. Prova a mandare portante e vediamo un po'. Non parlare, stai zitto, cioè tienila un po' più lunga e voglio sentirlo, senza dire niente, un paio di secondi. Leggerissima, però poi un po' si sente, ma molto vicino all'apparato l'alimentatore. Sì, io ce lo devo spostare dopo lo sposto, quello mobiletto bello, siccome quel mobiletto c'è il volontario, c'è il contact sotto, ripete, esatto, quindi lì dopo ci metto l'alimentatore, capito, così lì ha preso di quello che gli sposto più a destra, lo sposto con la colorina e fa la colorina e lui ci metto il coso lì qua. Guarda, io ce l'ho sotto, separato con un tavolo, insomma il tavolo mio è la struttura è metallo, è proprio sotto, insonorizzato, diciamo, no, non insonorizzato, nel senso acusticamente, nel campo elettromagnetico, è molto lontano, i cavi sono totalmente distanti, poi se hai possibilità di mettere a massa il telaio, guarda dietro il 440 c'è una specie di galletto, se lo colleghi a un punto dove c'è una massa efficace e tutti questi problemi li elimini, anche se stai utilizzando spezzoni di RG8, che hai detto tu che sono grossi, consiglio sempre di metterlo il più lontano possibile dall'alimentatore, soprattutto dai cavi di bassa frequenza, cioè microfonici, che c'è il rischio che entri qualcosa, qualche ronzio, te lo può portare sempre appresso, soprattutto quando utilizzi potenze un po' elevate, c'è un campo elettromagnetico all'interno della stanza, per cui c'è il rischio che ti riporti appresso dei disturbi. Io adesso sto facendo una prova, dimmi se senti qualcosa. Perfetto, perfettissimo. Ieri notte mi ho scaricato un manuale di questo apparecchio. Sì, sì, è bene che te lo guardi. Guarda, tra parentesi, è abbastanza semplice da usare, non è che sia così complicato. Molte volte ti può far perdere tempo quando esci fuori frequenza per dire, tu ce l'hai tutti memorizzati i canali da 1 a 40? Sì, no, tornando a rompere la sintonia continua. Allora, memorizzati tutti i canali, che è la cosa migliore, te li metti dall'1 al 40 o ci pare che 100 memorie c'ha l'apparato, per cui puoi portarti anche qualche canale più su, ti puoi mettere. E poi la sintonia fatta nell'altro modo, ti schiacci il VCO, dove c'è scritto, mi VCO, scusa, VFO, è sotto il tasto in basso a sinistra, vicino alla presa della cuffia, schiacci quello lì e ti usi quello se ti vuoi spostare di pochi, per dire se vuoi andare in banda laterale, ti vuoi spostare appena appena, ti usi quello lì. Per adesso te li memorizzi i canali, almeno 40 e poi te li giri col manopolone come faccio io, è più semplice. Adesso per esempio qui siamo alle 10, cosa faccio adesso per memorizzarli? Ti conviene partire dal primo, schiacci dal primo e poi schiaccio memoria in nel tasto rosso, poi vai sul 2, ti sposti sul 2 e ti metti la frequenza alle 2, scriviti le frequenze così e poi scrivi memoria in e così ce l'hai tutti memorizzati, enter poi scrivi. Niente, puoi entrare con la tastiera, scrivi la frequenza, hai visto che i tasti dove c'è scritto LSB, USB, CWM, eccetera, eccetera, lì ci sono i numeretti della tastiera e puoi impostare manualmente la frequenza, scrivi per dire 27.075, schiacci ENT e ti appare direttamente la frequenza. Ok, ma non li voglio toccare quelli, cioè prima anche di andare a parlare, cosa devo fare? Devi uscire fuori dal VFO, ti memorizzi, e adesso tu sei col VFO inserito, no? Tu togli la funzione VFO e ti appare il canale. Penso di sì, Natalino normalmente si era memorizzato, ti appare la scritta MCH, vuol dire memoria canali, fai su primo scrivi 1, perché ti fate da 00, tu lo 00 non lo utilizzi a meno che non ti vuoi mettere un canale fuori banda, un canale alfa o cosa del genere, io lo 00 non ce l'ho sintonizzato, parti da 1 e scrivi 1 e scrivi la frequenza dell'1, non mi ricordo quanto è, 26.995, blu. Poi vai 2, ti sposti col monopone 2, scrivi la frequenza e scrivi memoria enter, memoria in, e te lo memorizza, poi vai sul 3, 4, fino a 40, e non sbaglio, è abbastanza semplice, però devi impostare anche il tipo di emissione, AM, per esempio è tutto in AM, perché se ce l'hai impostato in FM o in LCB o USB, ti memorizza il tipo di emissione che vai, per cui tutto te lo devi mettere tutto in AM, ogni volta che ti sposti, devi controllare se stai uscendo in AM, perché vai, se lo metti in canale 3, l'hai impostato in SSB e non esci in AM. Ma se io ho gli altri me li memorizzo in AM, quando io vengo in AM me li memorizzo in AM, quando sono in AM sono memorizzati. Sì, se sei già impostato in AM con l'apparato, però se non sei in AM e sei in banda laterale LCB o USB, quel canale, perché il canale 5 è impostato in LCB, magari per dimenticanza, cosa del genere, tu schiacci 5, è convinto che stai trasmettendo in AM, invece sta uscendo in banda laterale. Con la freccetta già, ripeti, ero un attimino distratto, cosa hai detto? Ma si chiama dell'interruttore della entrambe, cioè in AM c'ha un colore giallo, c'ha una luce gialla, c'è scritto AM. Certo che ce l'ho. Ehi, all'interruttore ti dà la funzione, la commutazione della funzione, quando schiacci AM ti schiacci nella lucetta gialla, però non è detto che tu quel canale, per dire, se sei sul canale 10 e te lo vuoi memorizzare anziché in AM, te lo vuoi mettere in USB, per dire, te lo puoi memorizzare come tipo emissione in USB, il canale 20 te lo metti in AM, normalmente i primi 40 canali sono tutti in AM, non c'è da sbagliare, però se a te ti interessa tenere un canale, per dire, canale 45, canale 50, uno che ti piace a te e ti vuoi mettere, ti hai portato la frequenza in USB o LSB o quello che vuoi tu o in FM, per dire, ti vuoi portare il canale 10 che trasmetti in FM, perché molte volte quando parli con i canali, con i tedeschi e cose del genere, loro usano l'FM e non vuoi di nuovo uscire col VFO e scrivere di nuovo la frequenza e fare tutto, te lo tieni già impostato e ti rimane in FM col canale. Canale 10, poi vuoi andare al canale 11, vai sull'11 e fai tirare il manopolone, sino a quando non ti appare, adesso non mi ricordo se è 27.105, mi sembra canale 11, non mi ricordo, e di lì, e poi scrivi memoria in, e lui se lo carica. Vuoi provare? Aspetta un attimino. Memorizzare il 10. Prova, fa la prova, non costa niente. Dov'è? Ci sei riuscito? Ho scritto 11 però, aspetta, diciamo. Sì, a cancellare. Sì. Dov'è? Oh. Sono riuscito. Adesso sono 11, no 10, così no, così. Sì. 10, 27.75,00. Poi c'è un'altra possibilità, però non farlo, noi lo facevamo con un amico per non farci rompere le scatole, puoi utilizzare lo shift per dire trasmettere in un canale, adesso sei 27.075 e ricevere su un altro canale che impulsi tu. per dire, non ti vuole far ascoltare, come fanno quelli che utilizzano i punti, per dire, in ingresso hanno una frequenza e in uscita ce ne hanno un altro. Quando vuoi parlare con qualcuno non ti vuoi far ascoltare o non vuoi far sentire la conversazione. Cioè, ascoltare si possono ascoltare, però non sentono la conversazione a meno che non sanno la frequenza impostata. Quella è una cosa abbastanza utile. PLB. PML sta parlando di quelli piccolini, trasmettono anche su un canale sulla banda radioamatoriale, quelli sono sino a 500 mW di potenza, anche se qualcuno ne tira qualcuno di più di watt. I PLD sono quelli più piccolini di come potenza, hanno 100 mW mi sembra di dire, sono quelli attaccabili, quei portatili piccolini che trasmettono intorno ai 400, adesso mi ricordo se è 445, una cosa del genere, trasmette uno e l'altro un'altra frequenza, sono quelli da uso libero, però il PML dovreste avere l'autorizzazione per utilizzarli, perché un canale corrisponde a un canale radioamatoriale e utilizzano una potenza superiore al normale, per cui devi fare l'autorizzazione, chiedere una specie di patentino, ti danno per l'uso limitato a servizio, diciamo, quando devi usare certi tipi di manifestazioni sportive o quello del genere, o per dire quando c'è un'attività. Non devi dichiarare che apparato ha e quante persone la utilizzano, abbastanza, anche se la maggior parte della gente lo utilizza così, uso libero, però la legge, se applichi la legge non lo puoi fare con discorso. Io pensavo che l'altro che vi stavo dicendo era una roba grossa per l'uguaglianza. Allora c'è da dire, i PMR hanno 500 mW, che sono mezzo watt, diciamo non è poco. Hanno l'antenna piombata, non si può staccare l'antenna, li fanno per le teste, non stacca. Però vendono gli stessi PMR, fuori legge diciamo, gente di importazione, roba di importazione, non per il mercato italiano, staccano l'antenna e non ci attaccano l'antenna esterna. Tu con 500 mW puoi trasmettere anche lontano con l'antenna di coso. E se te ne vai sul canale, adesso mi ricordo se era il canale 1 o canale 2, è una frequenza utilizzata dai radioamatori, per cui puoi creare dei problemi lì. Le fanno anche la Brondi, io ce l'ho, non so se era la Brondi o che cosa cavolo sia, ne ho una coppia, l'avevo presa qualche anno fa, e ti posso dire, con le sue antenne funzionavano, qualcuno mi ha anche risposto abbastanza lontano, perché trasmettono in FM, la modulazione è molto chiara, pulita, però trasmettono in linea ottica, però se tu ne trovi uno di quelli con l'antenna esterna, puoi sparare, se c'è una bella posizione, quelli lavorano anche, se c'è uno spazio aperto fanno diversi chilometri. Un sacco di gente, soprattutto i camperisti li utilizzano tra di loro, poi hanno i subuttoni, hanno dei canali diciamo sottocanali, chiamiamoli là, volgarmente detti sottocanali, e ti puoi spostare in modo che non ti ascoltano, prendi il canale 8 e poi c'ha altri 10 canali sotto, intermedi, e ti puoi spostare appena appena, per cui ti possono anche non sentire, per dire, uno cioè sul canale 8, poi ti metti il sottocanale 15, 50, non so quanti ce ne hanno, e puoi evitare di farti ascoltare, a meno che uno non sappia la frequenza di quel momento lì. Sì, le LPD hanno 100 mW, quelli li puoi usare, quelli sono i cosiddetti walkie-talkie, dai, quelli che usavamo noi da bambini, che hanno pochissima potenza, sono di limitata potenza, vengono considerate. Aspetta, lo leggo, non me lo ricordo neanche più cosa vuol dire LPD. Allora, PMR vuol dire Public Mobile Radio, servizi di radiocomunicazione mobile al servizio delle pubbliche amministrazioni, istituzioni e civili e aziende. Qua ci vuole l'autorizzazione, mentre gli LPD e sono dispositivi trasmittenti a bassa potenza, L sta per low power dispositive, questa è la definizione esatta in inglese. Io ne ho due, ne ho di quelli che stai dicendo tu, della Brondi, non so, ma non mi tocca vedere a loro, quelli sono robe. Quelli miei, aspetta, quelli così, se sono Brondi o che cosa, scusa. Sono, i miei sono proprio della Brondi, sono neri con l'altoparlante, cosa l'altoparlante è argentato, quelli che venivano al supermercato, un sacco di puzzi. Oh, davanti. Però beh, l'aria da questa, lei ha un controllo. Il segnale 69 più 30, radio 5, ultima. Yeah. Ma è pulita oppure c'è qualcosa? No, assolutamente no, prova a dare una portante, c'è un pochettino più bacino di Capri come livello di emissione, di modulazione, ma magari cos'è? Con il palmarino sta utilizzando, no, no, questo è un 60 invece. Ah, ma 60, guarda un po'. Ma il processo nel sedito ce l'ha. Venga Roberto, c'è inserito, Sei un po' più bassino di Capri. E il livello, ma tu sei con 44. Adesso Roberto ha alzato un pochino, lo dice. Sì, sì, è sollevato, è giusto. Ma sei col 44 o col 14? 14. Ah, e a quanto ce l'hai il livello microfonico? Adesso è al massimo. Addirittura al massimo? Come mai? Quello deve stare in posizione W, quasi centrale. No, non la potenza, sto dicendo la, il mic gain. Il mic gain deve essere, c'è scritto power, no scusami, sto dicendo per sé, la potenza, non la potenza. E nella posizione C deve stare. Ma è sotto la, no, sotto la C, vabbè, quasi al massimo. Però ma a che distanza stai parlando? Guarda, adesso ora la cipolla, com'è? Ma la radio è perfettissima, niente da dire, però Capri è spinge di più su, vabbè, lui c'ha un tipo di lavoro diverso, non fatto su quella qua, lui sta usando il 44, però sta andando benissimo, la radio chiara è perfetta, chiediamo un controllo anche a Capri, che lui è un po' più lontano, avanti Capri per Daniele. Buonasera, salutone, diciamo che dopo controllare il segnale, che mi sono avevo notato dalla sedia, mi stavo ascoltando, quindi a fare il nominativo, che non ho capito... Ciao Capri, ben sentito, Daniele. Buonasera, sono quelli di Abbati che controlliamo la radio, a me va benissimo, proviamo il segnale. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, ora la cipolla. E qui mi dà quasi 9 di segnale, quasi 9 non so che cosa stai usando, quasi 9 la radio per me è comprensibilissima. Cara, va bene, va bene. Perché era un po' di tempo fermo, dai, cioè due giorni che acceso, io ho provato a mettere la modulazione. Però mi stanno dicendo che non sta spingendo come prima. Se non è fermo la roba, si deve riprendere. Ma niente, quanto cambia, diciamo, sia il segnale che la radio, ma c'è ancora una, due, tre prova. Allora, con il segnale 6-8, radio 5 ben amplificata va bene. Va benissimo, vabbè, ce n'è un altro, tra l'altro la linea un attimo. Allora, l'ho preso dal mobile, c'è scritto FX10, confermi che è quello. FX10, ah, il modello sta dicendo, scusa. Beh, ma FX10, sì. Ma è bellino, già funziona bene, pure. Poi c'è quel bip, quella specie di suoneria quando l'ha chiamata. Vabbè, ti dico il mio. È uno di quelli, quindi adesso devo cercare poi. Era caduto, mi stava dicendo mio figlio, che non si sentiva. Si mette, poi adesso li metto in carica, li metto a quel punto. Perché non abbiamo più operati, li abbiamo comprati e molte volte quando ne abbiamo questa, no? Ho capito, in due macchine a sua madre, però c'eravamo il fuoco, c'eravamo. E allora ci stava da mamma e ci dividevamo uno, io c'avevo il semplice. Sì, anche a me mi è caduto in terra, infatti uno sente pochino la tua parlante, lo dovrei aprire ma non mi interessa, lo tengo così di scorta per là, l'altro funziona bene comunque. E le batterie purtroppo non valgono niente, io le ho dovute cambiare perché si sono rovinate subito, le ho comprate altre e sei attento che si ossidano molto facilmente, infatti me proprio l'altro giorno le ho tirate via, che è una grande cagata, con le batterie danno in dotazione non valgono niente, ne ho messo altre, non so se della Panasonic o della Dura, cioè non mi ricordo, vanno un po' meglio che sono blindate e resistono un po' meglio per l'acido che emettono, però non ti fidare mai. E infatti questa roba là non li abbiamo più usati, robe, hai capito? Non li abbiamo più usati e boh, dopo magari anche sono rovinate le batterie. Ok, vabbè, se no posso avere nessun mungo. Ok, dai, riprendi. Chiara, aspetta un attimo. Ora. E adesso Robè, cosa mi dici? Com'è? No, va benissimo Daniele, perfetto, niente da dire. Questa è un'ottima radio, non ti posso dire niente di difetti, non hai neanche rumori di fondo, con cosa lo sta alimentando? Con lo switching, Vai, metti a Torino, dai, 30 ampere. E niente, niente di più. Ma tu avevi, o sbaglio, anche il 44, Daniele? No, vabbè, mai avuto, solo il 14 e basta, il più grande che ho. No, va benissimo, niente da dire. No, no, pulito, emissione pulita, non c'è nessun disturbo, va tutto, va più che bene tutto. E puoi provare, Mario, avvicinandoti un po' al microfono, sei presente, Gianni capi due che tu sei in lunga distanza, tra me e lui, differenza di radio senti, di non dico di segnale, di forza di radio, di emissione di radio. Ma la radio di Daniele mi sembra appena più forte, ma di poca roba però. Ah, ma beh, sei troppo forte di tu, dai, allora è quello il discorso. Ora, io sto parlando che è abbastanza lontano, normalmente parlo a questa distanza così, guarda. E comunque la regolazione mia è questa, per cui non lo tocco il microfono, va bene così. Allora sei troppo forte tu rispetto a lui, dai, probabilmente per quello. Dai, comunque Daniele, non ti preoccupare di niente, stai andando a meraviglia, va tutto bene. No, le parte sì, cioè che si sia ripreso il tutto, capito? E niente, perché poi ho detto stasera sto facendo un po' in radio e all'inizio era un po' cupa. Poi pian piano si è ripreso, adesso volevo sapere se del tutto si era ristabilizzato, dai. Cosa ti è rimasto di apparati poi, Daniele? Quello bello l'hai dato, maledetto, ok. E qua è già, no, ciao Claudio e basta, cioè l'ho sempre messo all'apposto. E poi gli altri sono sempre i soliti e sono fermi. Sto scherzando, già in buone mani, sei con Claudio, già in buone mani, non ci preoccupiamo. Il problema è che l'avessi dato Marco, mi sarei arrabbiato, poi puoi fare quello che vuoi, e con quello l'apparato è il tuo. Però è una cosa speciale, col DAC è veramente uno dei pochi apparati di vecchia generazione che fa bella figura anche con apparati grossi, parliamo radioamatoriale, perché sembra un apparato radioamatoriale talmente grande, bello, c'è una linea spettacolare, uno dei pochissimi belli proprio. Perché Saturneco è bello, però è uno scatolone biondo, perché solo qui non c'è niente, mentre quello è pieno, c'è la roba dentro. Vuole un po' di vita quell'apparato, è piano piano di ripristinato, dai, è fatto andare, mi sa che ci sono le valvole o che cosa, e niente. No, già ce l'ha fatto sentire Claudio, già l'ha risollevato, l'ha ringiovanito, ok, avanti Gianni. Perfetto, non ho fatto uscita, mi sembra la sintonia, Claudio, il DAC, con quello lì e il decennale. Guarda, il DAC? Sta dicendo che ha provato, Claudio, quello si chiama DAC. Ha provato, capo, il DAC, però l'ho sentito anch'io, però no, all'inizio, però l'ho più sentito in moto. Saturno, ce l'hai, guarda anche quello, stavamo parlando di quello, anche quello è un bel apparato, però è uno scatolone vuoto, se tu lo apri non c'è niente dentro, è lo stesso circuitino del Pluto, sono precisi identici, solo ci hanno aggiunto il frequenzimetro e l'alimentatore interno, è uno scatolone enorme, cioè l'hanno riempito, cioè l'hanno fatto apparire, ma dentro non è venuto ancora, mentre il DAC quando lo apri ci sono le valvole, vedi una cosa spettacolare. Sì, la mamma è così. Commutare, anzi adesso lo metto un'antenna aperto, il cavo dell'antenna e un microfono, ci può usare anche quello. Ok, buonasera a tutti, comunque dai, sono ritornato qua in Monte dei Capri. Un po' metallico rimane, però se non trovo l'autoparlante esterno, sua, una gara tocco, capita, una gara tocco. Allora, che il capello che prende, è un filo, come se non fosse stato di incarica, poi come si arrovescio. No, una grande vacna, perfettissima, che è niente da dire. Niente da dire, l'unica cosa che qui le può fare, dopo, prima di andare a letto, portare questo mobiletto, quindi c'è un carrello, c'è il posto, perché lui lo vuole fare e ci metto l'alimentatore di questa roba, lo sai qua, perché se non mi fa rompere il microfono. Minchia, però tu sai come ho fatto io, senza dare niente a nessuno, prendi tutta la roba che non, praticamente non usi e la conservi, se non hai però la conservi, in uso che tieni il 440 con il suo alimentatore, la colonnina e l'alimentatore, ti tieni quella roba lì da usare solo quella e basta, senza stare lì a tira molla. Se poi qualche volta ogni tanto, come faccio io, hai necessità di di provare un baracchino, tra l'altro per staccare con la lanterna l'attacchi lì e lo provi, ma per la quale è tutto in uso, io c'ho un commutatore, Giovanni, tu qua non sei mai venuto, ma se vieni qua io c'ho tre commutatori accoppiati, ok? Però da 1004 in uno, e sono 3, 3, 6 e 3. 9 ingressi d'antenna, cioè 3 ingressi d'antenna e 9 uscite, tu immaginati quindi il casino che c'è, e comunque io mi salvo perché è comodo, le radio sono tutte orientate e tutte funzionano, però se non è posto è un casino, non fa, capito, tutto qua, va bene, Daniele, a te. Guarda adesso qua se sta facendo ancora il difetto di stasera oppure ha migliorato. Ah no, adesso sei tu, ma Daniele lo sai, il 140 essendo due conversioni, il problema è che deve scaldare molto molto bene per avere un allineamento microfonico al 100%, mentre su 440 le tre conversioni tu una volta che lo accendi rimane allineato così com'è, il tempo proprio ma 2 secondi, mentre quello ci mette anche un'ora prima di stabilizzarsi bene, di dare quella modulazione bella chiara, perché appena lo accendi, appena lo usi, poi il tuo figura te la ferma, immaginati tu, ha perso tantissimo tutta la parte della connotazione delle mic, e quindi adesso man mano che lo sto usando si è stabilizzato, va molto bene adesso, Daniele. Olga, a prego. E registrate il brecco. E adesso in questi giorni diciamo sono nuovo da queste parti, lo faccio andare, almeno così si rimette in funzione, scalda e spero non abbia problemi. Infatti. Andate voi, buonasera. Ehi, buonasera a tutti quanti componenti del canale 10, buonasera a tutti. Quanto mi hanno abbandonato, mi sono trattenuto, circa le 2 con Vincenzo e con Milisi, poi che ho detto una giotta, ero da tanto che non ci passava, ma è rimasto sempre una giotta quel posto. Oh, scusate, riprendere, approfitto che chiudo e ci sentiamo alle prossime, se coincide, dai. Ciao, ciao, forse hai capito, hai deciso. Ciao Daniele, buonasera, beato che ti risente la buona varia di tempo, Quando c'ho tempo, buonasera, quando c'ho tempo faccio anch'io un po' di così, due chiacchiere, dai. Ho sempre nei momenti sbagliati ti devo incontrare a te. Quando è che ci scendiamo a Ghero, Daniele? Guarda, appena c'ho un attimo di tempo già ci scendiamo ben volentieri. E cappa, non ci sono problemi. Bene, dai raga, vi saluto, che se no si fa tardi. Ci sentiamo alle prossime, dai, buon proseguimento e buon tutto. Ciao, ciao, ciao, Daniele, ciao. Hai capito, Giuseppe, cosa ti ho detto? Non ho capito, bra. Mi sono trattenuto fino alle 2, la notte di Nirvana, navigato da giorno con Milici e con Vincenzo, il fatto di aver risato ci abbiamo fatto. Ah, capito. Vabbè, va bene, là. Già va bene così. Com'è Claudio adesso il segnale, guarda? Buona, 19 più 20, adesso ti mando avanti a Capri 2. 9 più 20, va 5, perfetto, Giuseppe. Non ci sono problemi. Cesso, grazie, per carità. Avanti, Capri 2, buono, Giuseppe. Giuseppe, buonasera, sono Toni, Capri 2 da questa parte, che si supercondializza. Ok, trovo bene gli avanti, ti do incontro a lui, io intanto contro la cambia a me, come ti arrivo. Ciao Capri 2, buonasera. Tu mi stai arrivando quasi 9, la radio Super 5 è qua. Mi accontento. Ho visto il tuo segnale, segnale oscilla da 7 all'8, però la radio è comprensibilissima, non è né sciato né niente, proprio la radio 5 si può fare, perché qui arriva pulita, comprensibilissima. Ciappa, va bene così, va bene. Comunque, quella cosa che aveva chiesto è sempre valida lì, di vendere tutto quanto e non vendere anche questo che sto modulando adesso, il garage, non vendere anche quello, perché proprio sono, Claudio già lo sa, sa la situazione, tutto quanto, dunque mi servono cash, hai capito? Io ho capito Giuseppe, io ne ho tantissimi, non è che... diciamo che a Rossi c'era gente che stava cercando a Prati, e a dove non ti ha detto niente. Io diciamo ho comprato una roba, diciamo, non di quelle grandi, hai capito? Però ne ho tantissimi, non saprei dove più metterli, hai capito? Mi sembra che sono arrivato come a Prati, perché non c'è più poco. Però quantomeno quello di Rossi, c'è gente che vuole acquistare apparati, se ne sai qualcosa, detto qualche cosa. Antonello, io non l'ho più sentito, se lo senti dilli di fare una bassa, che lui lo sa che io sto vendendo quello là, la sezione base, tutto quanto, dunque sto vendendo quella roba lì. Chi lo vuole, mira, col microfono, l'MP5, 100 euro, e le do quello da base, 220, più questo che il gas, questo costa molto di più, però è nuovo, c'ha il suo microfono normale, tutto quanto, e sto vendendo anche questo, perché causa materia prima, perché sono da solo, dunque mi servono soldi per poter pagare la roba qua, hai capito? Luce, quella roba lì. Sì, già ti ho capito, già ti capisco, Giuseppe, hai capito, capisco quelle situazioni, purtroppo, però anche io adesso quello che ho te l'ho speso, capito, Giuseppe, ne ho anche io acquistato di roba sempre per queste situazioni qui. Ok, riprendi qua. Pochi soldi che mi hanno fatto di quelle ore che facevo, capito? in tre mesi ho ritirato 750 euro. Ho detto pane su pane, però non puoi campare con 750 euro, quando c'è tutto quanto da pagare qua. Lo so, io diciamo che il lavoro che faccio mi guadagno, però pago tasse, alcune tasse, perché sono in proprio, hai capito? E soprattutto che non pago affitto, però non è che ci rimane molta roba, e so cosa vuol dire, diciamo, magari avanti la famiglia, hai capito? Però anche una persona si vive sola, ha i suoi bisogni, ha le sue cose, e deve fare una vita già. Non dico da non capo, però tutti secondo me devono fare una vita agiata senza camminare, diciamo, e fare tortuose, diciamo, perché sono cose che toccano, non mi toccano queste cose, uno quando non c'è nulla non ne ha, è inutile che la puoi girare, fare, hai capito, non so se c'è i genitori, tu o le cose, io ripeto, ho sempre lavorato, per il male sono riuscito, sono fortunato che riesco, però c'è tanta gente che ha tanta voglia di lavorare che non riesce, guarda, ad ingranare, a trovare un lavoro, per sbarcare il lunario, ma non per capito, per fare qualsiasi progetto, giusto per vivere, capito, non c'è nulla, poi la gente sta andando tutta male, io qualche ragione stavo parlando con delle persone che sono state licenziate, hanno famiglia, e mi dispiace, soprattutto quando arrivavo le feste, mi prendi qua. Allora, questo qua è il DAC, non c'è più Daniele, questo è il DAC, non guardare il segnale perché è basso, questo c'è a pochi watt, però la radio ti piace già. È perfetto, oh, ho fatto i con l'altro arrivi appena 9.20, faccio, però questo ci arrivi vicino a 9.10, quindi per me diciamo che e questo è il DAC. Adesso ho commutato l'antenna, è giusto per usarlo, visto che siamo in questo locale, non ci sono problemi. Così Giuseppe, non c'è niente per nessuno, non è una cosa che purtroppo te ne devi fare una colpa o te ne devi fare chissà che cosa. È un problema al naturale, diciamolo così, al naturale, perché è proprio tutta l'Italia in condizione veramente disastrosa. Quindi noi che poi tra l'altro siamo un'isola, noi che tra l'altro viviamo in una maniera diversa rispetto a quelli delle penisole, purtroppo siamo penalizzati in tutto, il lavoro è veramente, veramente finito, non c'è più niente per nessuno, Giuseppe, te l'ho già detto, quindi non te ne fare una colpa, vivi tranquillo e sereno, non stai rubando niente a nessuno, si vive la giornata e si fa quel che si può, Giuseppe. Lo so, però arrivato a un certo punto, cazzo, è arrivata la lettera delle cose dell'IMU da pagare, 370 euro devo pagare, Ocla, cazzo, adesso vediamo, di farmi prestare i soldi da qualcuno, adesso vediamo, se no se non pago l'IMU, cazzo, me le prendo a casa, hai capito? Vabbè, se però non c'è disponibilità, l'IMU aspetta, non dico che non devi pagarla, pagherai in ritardo e farai sì che poi pagherai una sanzione di mora, ma non è che ti vuoi andare fuori a pagare l'IMU, il problema è quello, cioè la gente, oddio. Lo Stato è quello che non ha capito, che purtroppo c'è molta povertà in questo periodo, con tutto rispetto, nel senso che il lavoro non ce n'è, quindi la gente non incassa, non capisco come faccia a pagare le cose di casa. è tutto lì il discorso, capito Giuseppe? Tutto lì, vai Capri. Sì, ma non so cosa gli è salito in testa da questa perché il limo, non so cosa che cosa c'è Giuseppe, e capito io non le parlo anche dietro, ma non vale perché anche la cosa guida non è che sia molto grande, poi c'è la famiglia e... però io dico questo, anche se uno c'ha una casa, e uno però non c'ha reddito, uno non sta lavorando, o dove va a pescare i soldi, non lo posso pigliare la casa, hai capito? E quello lì, e perché uno c'è il reddito, ecco, tu i soldi te li raccatti e lì non lo paghi, però se uno non c'ha nessun reddito, e come fa a pagare? Ma quello che voglio capire una cosa io, ma sai cosa mi ha detto quello del sindacato, no? Quello della CGL, a me mi ha detto questo, che quando sono andato lì, io devo pagare la cosa perché la casa è intestata a mio nipote, e mio nipote ha la residenza fuori, e figura che ha due case, capito? È quello che mi ha detto, guarda che sta sbagliando, ma detto, mio nipote è in affitto fuori. No, ma lì qua non c'entra niente, qua là, ha detto comunque suo nipote deve pagare così, deve pagare così, questo lo vediamo. Ma quello l'ha detto qua come seconda casa, per esempio io me ne vado in continente a lavorare, non ipotesi, ho capito, beh, ho questa qui di dieta come seconda casa, bisogna che sia così, claro. E vabbè, ma non gliene frega niente che sia seconda o prima casa già, eh. Infatti, come si chiama bisogna... io sono andato, non lo pago perché la pubblicazione principale, che forse qui metti non ti viene, però, diciamo, pago, ho pagato soldi e soldini, anche uno fruttuario qua, poi c'è quel pezzo che ho toccato dalla parte del dopo di mamma, con molto di soldi ha pagato e capito, non so come fanno questi calcoli, Giuseppe, non lo so, io non è che mi intendo molto, ma con un cazzo, ecco, lui non deve fare nulla e purtroppo però c'è gente che si trova in queste situazioni e paga un sacco di soldi. Appunto perciò qua, io adesso, parte l'esempio adesso, ho fatto il ricorso a mio fratello, no? Sono andato a pagare quello del conto del mio fratello in banca e per lui e la moglie hanno pagato 41 euro e 41 l'altro, 82 euro e vivono tutti e due nella stessa casa, non ho capito perché. Bisogna tante situazioni, non sono tutte precise, capito, le situazioni, io sono toccato perché non sapevo dove lo sbattere la testa, ma ne parliamone, ma il garage si mette ormai, allora non ho c'ho anche il garage, si vede che non rientra nei metri, è per quello che non fa nulla. Non so se rientra nel... perché ad esempio io di quello di via Pascoli pagato 70 euro mi pare, una cosa del genere, 70 euro, una settantina di euro, capito? Mentre della casa vabbè molto molto di più, capito? Molto molto di più. Ascolta, metto, allora così è tutta a manetta, così è tutto chiuso, così è tutta a manetta, ecco qua. Lo lasciamo tutto così, troppo alto è già così, oh, va bene. E prima andava meglio, comunque non mi scusa neanche così, è comprensibile, però prima era più orecchiabile. Era più orecchiabile, allora la mettiamo così, così come adesso. E se metto leggermente di eco, così, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ecco qua. Appena di eco così com'è, è brutta. Ma così va bene, non ripete molto, va bene così, il tono va benissimo, non è molto ripetitivo. Si sa che c'è l'eco, però non è molto ripetitivo e per me può andare anche bene. Va bene allora. Se non lo togliamo del tutto, mi era giusto per fare una prova, va bene così. E questo è il DAC, se no Poi Daniele dice che non lo sta usando, allora ogni tanto lo facciamo andare, non c'è problema. Avanti Giuseppe, prendi. Scappa. No, già è buona, è buona quella radio. È abbastanza chiara, pulita e si sente bene. Ehi, vabbè, poca potenza c'è, comunque già va bene, non ci sono problemi. Che monitorella. Guarda, ora. Avanti Gianni, Capri 2. Quindi che sta facendo? Cioè, io come non ho più sentito, magari sta lavorando fuori, ma sta più entrando in frequenza e niente, lui stava cercando degli apparecchi per un tipo di voci, io ce li ho ma non li prendo, mi ho lasciato quelli giusti e capito, sono tutte apparecchiature dentro ai baracchini e non li do per nessuna cosa al mondo, salvo che non capiti proprio che sia. Diciamo morendo con una sola nuvola che c'è l'ultima spiaggia, però diciamo stiamo cercando apparati però io prima perché ce ne so che mio figlio ce n'era uno, capito, che non usavo mai un mirina e poi non hanno voluto darlo perché lo vedevano sempre e capito ormai erano abituati, non ci parlano però sono abituati a vedere che io ho quello di casa, ci muovo una, l'ho comprato quello d'accordo da Stefano Principe, come vent'anni funzionava benissimo, e funziona benissimo, però tutti non si possono usare, io capito, gli altri ce li ho, sono degli anni 70 per collezione, guai a chi mi ritrova, e però diciamo, se entri in contatto con Antonello, per quel prezzo che lo stai vendendo, e c'ha anche il microfono da base, io penso che per quel prezzo lo vendi benissimo, mi giuro. Giustamente, qua, io come l'ho pagato, lo sto vendendo così, come l'ho pagato io lo sto vendendo così perché qua te l'ho detto, mi servono soldi e tutto quanto. Dunque, anzi, mi dispiace perché ormai ero abituato e c'ero questionato quel baracchino e tutto quanto senza le base, però in mancanza di altro devo far fuori qualcosa. Il discorso è quello, per poter almeno andare avanti un po', devo vendermi quello che ho, purtroppo è successo quello lì, e cosa vuoi fare? Io certo non farò la fine come quello là, di ieri, di quel ragazzo che ci ho buttato dal ponte, 35 anni, a Ponte Rosello, boh, io questa gente non la capisco, boh. Madonna, ma tanto lo sai, lo si butti in Maria e... No, non sapevo di questo fatto, no. Vabbè che io sono sempre al nome tornato, no? Non sto guardando più un giornale, non si vede più di urina, qui non si vede neanche se anche se avvenia uno, lì stato lo guardavo, adesso già tento di mettere le antenne con digitale terrestre, così mi sembra che già funziona così. Non ne sapevo che si era buttato uno, e la gente disperata, guarda, non si sa manco cosa pensare, riprendi qua. Chiappa, ok, non gridare già però, non gridare, sennò è un casino, aspetta che abbasso appena qua, 1, 2, 3, 4, eccolo qua, non gridare, sennò vai a strappare, ok, va bene, e mi si era chiuso il microfono, non riuscivo a capire perché non stava più andando, e invece ho visto che si era chiuso leggermente, non c'è problema. E chi è questo Giuseppe? Ma di Sassari? Hanno detto che è di Sassari, però non so, c'è un articolo sul giornale oggi, c'era anche la fotografia del giornale oggi dalla nuova e non c'è nome, non c'è, però ieri si è buttato quello lì, 35 anni, questo ragazzo, non so chi è, no, non so dire chi è. Ottima miseria. Questa è la sfortuna dei giovani, Giuseppe, il problema che chiaramente le persone non riescono ad affrontare. Io ripeto, è brutto perché è brutto e la situazione non è delle migliori, però se non riusciamo ad affrontare questa crisi che ci sta veramente coprendo a tutti nel bene e nel male, arriva veramente la fine del mondo, io già, hai capito? Bisogna affrontare le cose come stanno, perché diversamente non è, il problema se c'è, cosa fai? Ti ammazzi? Lo lasci alla tua famiglia il problema, mica lo risolvi ammazzandoti. Cosa ne vale la pena di pigliarti la palla dei monti e quando il gatto ti ammazzi cosa hai risolto? Fai soffrire i familiari, tutto quanto, dobbiamo fare spese, contro spese di funerali e tutto quanto, e beh, e cosa hai risolto? Niente risolvi Giuseppe, il problema rimane, sussiste e lo trascini alla famiglia. Ma lo trascini anche diversamente, con molto rancore, con molta, cioè distruggi tutto, capito? Distruggi tutto, quindi o si affronta o che cosa fai? Non puoi fare diversamente, dai, cambiamo discorso perché altrimenti la cosa diventa molto triste e monotona anche per chi sta ascoltando. Il problema c'è, ce l'abbiamo tutti, chi più chi meno, dobbiamo cercare di andare avanti, punto, avanti Gianni. Infatti, meglio ancora, non potevo scelte altro urlare, è sconfuso in qualche cosa, non si sente altro, non si sente altro, è una cosa che tocca anche quando non sei tu che me lo dà, che mi tocca, ma penso un po' sentimenti si vede, purtroppo. Speriamo che si sbocca, ecco qui una cosa, ma hanno finito, come si chiama, cioè anche l'officina, una grande officina, hanno fatto di camion, proprio l'officina della Iveco mi sembra, e lì speriamo che dia lavoro a gente o di Sassari o di qualche posto, solo che sto pensando che lì vogliono gente specializzata. Quando uno non c'è la qualifica, già il discorso è anche quello. È come il discorso mio, che io per una vita sono stato dietro il banco, non mi posso mettere a fare il meccanico oppure l'operaio tricista, ho fatto anche quello, però a livello di aiutare a passare i capi, quella roba lì, capito, l'ho fatto, però non è che sono proprio elettricista io, però barraggio non è quello lì, però ognuno, come dice il proverbio, ognuno sa se sua. E non riesce a ingranare, a riaprire qualcosa, a fare, e proprio la scelta dove collaborare, a provare anche in queste discoteche, a farti qualche giornata lì dentro, a provare, hai capito, a provare qualche cosa qui almeno, e quelli ne prendono, hai capito, di gente, ho visto che ogni tanto, diciamo, per lavorare, no, se la c'è uno, la se la c'è l'altro, hai capito? Non dico un lavoro fisso, però così. E vabbè, già, il discorso è questo, io qualche giornata sì, quando mi chiamano vado perché non sono da buttare via 60 euro, 80 euro non sono da buttare via, però no, non è che mi salvano il mese a me oppure o tutto l'anno, magari se ne fosse ogni giorno di chiamarmi e farmi qualche giornata così, magari ogni giorno, io lo vorrei fare ogni giorno queste giornate così, magari che ci fossero sempre delle feste, organizzate delle feste e tutto quanto, e il dato del lavoro, chi mi chiama rimane contento del servizio che le faccio io, ho capito. Non lo metto in dubbio, si è fatto sempre quell'altro perché lo so, lui è 2 mesi che la facevi, quindi lo so, ma lo so che devo ti conoscere, perfettamente ti conosce. Ok, riprendi qua. È positivo, no, beh, Giuseppe già è un mio lavoratore, non è un problema quello. E che purtroppo a volte le cose non vanno come devono andare, capito? O già le cose purtroppo non vanno come devono andare, allora c'è il problema, che è quello, purtroppo è così, vabbè. Pazienza Giuseppe, prendila come deve andare, se la bisogna oggi tanto. No, non cambia la situazione, capito? Vabbè, per fortuna c'è ancora, già lo sai, c'è vita ancora mia madre, grazie a lei stiamo tirando avanti piano piano, però un domani che mettono le corna, se lei dovesse andare via, mi troverei veramente, come dici tu, nel QSO. Se una molla la prende davvero nel questione, Giuseppe, non bisogna mollare, bisogna andare avanti e basta, altrimenti è un casino. Avanti i capri. Infatti, diciamo che a me mamma mi ha fatto altro, che c'è stato, voi sul singolo, e diciamo, sono stati anche da aiuto i genitori, che si era sposato, mamma era sempre veniva, sempre veniva qualcuno che ha capito dove. E io avevo una lunghissima vita, hai capito, però diciamo, non fatti anche se sei lei, bene così, senza anche di prenderla più con spirito, però qualche cosa secondo me si sblocca, qualche cosa si dovrebbe sbloccare. E non imminente, però io ho nuove speranze, perché non può andare a finire così qua la cosa, non può andare, non si possono spremere più di come siamo spremuto. Speriamo, già, speriamo che qualcosa si sblocchi, perché non si può più andare avanti così, no. Oh, guarda, arrivato a un certo punto uno fa di tutto per inventarci qualcosa, qualche locale, ma oggi aprire un locale, a parte ci vuole tutto quanto, ci vuole fortuna e buona volontà, però ci manca la materia prima per poterlo aprire, hai capito già? Stavo dicendo, Giuseppe, lì come ce l'ha preso in gestione, come di fazione? Era tu, diciamo, della gestione oppure lavoravi come dipendente? No, io lì, diciamo che noi avevamo, lì ce l'avevamo per contratto, capito? Noi ogni 9 anni rinnovavamo il contratto, capito? Lì noi ce l'avevamo dal 63, ce l'aveva mio padre, poi quando sono nato io, ero piccolo, poi ho iniziato a lavorare quando avevo 13 anni io lì dentro, però 13 anni fino al 2001 dopo la morte di mio padre, hai capito? Hai capito, avrei provato, diciamo, di chiedere a contattare quelle persone, diciamo, anche vecchi ferrovieri, proprio non è che fu fuori più di tanto, perché proprio c'era e non c'era lì, proprio viaggiava anche, e che non stava sempre al solito, però gente che c'è stata fissa, io adesso di quella cosa parlo con mio cugino, che era capostazione di Assassari, cioè di provare a contattare, hai capito, una persona contatta l'altra, e a vedere poi se ti possono, che c'era proprio tutti questi anni, e prendere in considerazione, e vedremo che la situazione come si è messo di darcelo, non per 9 anni magari, fatti un contratto comunque, volevo far sentire Daniele, ma è perfettamente funzionante, esce anche molto bene. Ok, e così è, così, no, noi ci sia molto da aggiungere, no? No, Capri, great, non c'è molto da aggiungere, il problema c'è, esiste, bisogna affrontarlo. Di affrontarlo, vabbè, avanti Giuseppe. Erano altri tempi, già, erano altri tempi allora. Allora prima i soldi giravano e io ne ho visto girare dentro quel locale. Dunque, adesso, come stanno adesso, stanno proprio a terra a terra, come era prima, Claudio, troppo lì e confermare che quando veniva lì vedeva, si faceva la fila anche lui quando filava le sigarette, fila di almeno di 2 ore, 3 ore ce le faceva. Dunque, però adesso o perché hanno inventato queste cose o perché hanno inventato quell'altra cosa, non c'è più giro, non ci sono più treni e stanno eliminando tutto, la ferrovia sta andando a farsi benedire, lì chi lavora lì è sempre in via di sciopero perché non pagano gli stipendi arretrati. Passano 3 mesi, 4 mesi per ritirarsi uno stipendio, anche loro lì il lavoro lo fanno, però vogliono essere pagati, capito già? Sì, perché adesso lì non so cos'era, è stato mi avessi, io quando me sono andato in pensione ho chiuso la porta, perché poi è passata subito ente, ma quella cosa dove l'ho fatto, dove l'ho fatto. E poi è passata, si chiama Trenitalia, adesso si chiama, e praticamente lì uno, anche se ha vinto il concorso, mi ha trattato sopra una cazzata, rischia come che in un'impresa di essere licenziato, mentre ha poche parole. E io lo dico, ma c'è un punto fisso con nessun nome, ma noi siamo convinti, uno perché è dipendente regionale, è intoccabile, eh? No, stiamo scherzando, non esiste. Non esiste un nuovo più assoluto, te lo posso garantire perché è così. Oramai è tutto un mania mania di chi ha più forza, capito? Di chi ha più forza, diversamente alle 10 buon viaggio. Va bene signori, sono 10:30, domani dovrò fare alle 5:30 perché ho un paio di appuntamenti molto presto con Leone e l'Ottosburgo, quindi devo accompagnare in un impianto che non so ne dov'è, quindi devo uscire presto. Quindi vi auguro una buona notte, ciao Gianni, ciao Giuseppe, e state una tranquilla e serena. Saluto a tutti quelli che sono all'ascolto e ci sentiamo domani. Fate sentire Giuseppe, è un po' più attivo tra le 10 adesso. Stiamo batticchiando un po' io, Gianni, Capilura, Arte, Roberto, Massimiliano e così via, quindi mi sembra ci sia un po' più di attività, quindi fate sentire, siamo qua sul canale 10. Ciao a tutti, buonanotte, a te Capi, a domani. Ok, ciao. Ciao Claudio, buon trabacco per domani quando lo fai e ci sentiamo presto, dai. Ok, dai, approfitto anche io a chiudere, ci sentiamo tutte e quattro le prossimine domani, se concilia, dai, già, al limite avremo modo di berci una caffeina assieme per ficcare quando ci incontreremo nuovamente, quando alle prossime, dai, ok? Tutto che tu sei, non tutto come tu fai più su, fuggire, dai, ciao ciao, buon lì per me.